Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. I want you. Hollywood è qui. Basta con questa fuga di cervelli, basta, via! Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Per introdurre la nostra puntata natalizia abbiamo scelto Fuga di cervelli, prossimo film di Paolo Ruffini, che ha lanciato la sfida a far parte del cast convincendo un amico ad andarsene oppure a non partire. Puntata speciale oggi che vi proponiamo, come nel nostro stile, in controtendenza. Niente slitte, niente neve, niente Babbi Natale, ma il caldo dei tropici con una storia esotica. E il regalo di Natale ce l'ha fatto il capo dello Stato Giorgio Napolitano con la frase della settimana. Proprio pochi giorni fa il Presidente della Repubblica ha affermato: c'è in Italia una nuova emigrazione favorita dalla crisi economica e dalla difficoltà di trovare lavoro. Per Napolitano le politiche volte a favorire la ripresa attraverso investimenti in innovazione e ricerca costituiscono un importante incentivo a restare e per chi è già all'estero a rientrare, riportando in Italia competenze arricchite dalle esperienze acquisite. Napolitano ha concluso: gli italiani non hanno mai smesso del tutto di cercare lavoro all'estero, in particolare ora che la condizione della nostra economia non sempre consente a lavoratori specializzati e a giovani ricercatori e professionisti di vedere adeguatamente valorizzate le proprie competenze e professionalità. Più chiaro di così? A grandi linee io posso esprimere le sensazioni che ho riscontrato durante i vari colloqui di lavoro che ho fatto e ho trovato un clima di sospetto, di diffidenza, di sfiducia, poca voglia di rischiare, di scommettere anche in una persona, ecco. Tommaso Persello, 35 anni, amministratore esecutivo di Cage Invest Group, azienda da lui fondata per attrarre investimenti esteri a Capo Verde. Della sua storia parleremo tra pochi minuti, ora spazio al notiziario. In apertura una notizia curiosa che apre però uno spaccato preoccupante sul mondo dello sport. Fermate la fuga all'estero dei maestri italiani. Questo è l'insolito appello lanciato dalle Azzurri del Fioretto. Dopo l'Olimpiade di Londra 2012, i tecnici italiani hanno cominciato a guardarsi attorno, allettati dalle ricche offerte arrivate d'oltrate. E ora spazio ad alcuni dati dell'annuario Istat e dal rapporto sulla coesione sociale. Tra i giovani under 30 il tasso di disoccupazione dei laureati è più elevato rispetto a quello dei diplomati. Un anno fa raggiungeva per i neodottori il 16%, oltre 3 punti in più rispetto ai diplomati. Forse anche per questo negli ultimi anni l'università italiana fatica ad attrarre giovani. Il rapporto tra immatricolati e diplomati si è ridotto al 61,3%. A livello più generale, nell'ultimo quadriennio si è assottigliata la quota di dipendenti under 30 fino al 16,9%. Nel 2011 erano oltre 1 milione gli under 30 in cerca di lavoro. In Italia le retribuzioni medie risultano differenziate in base all'età, valori inferiori ai 60 euro al giorno per gli under 20 e i 20-24 anni, mentre superano i 100 euro per gli over 50. L'Italia resta un paese a scarsa mobilità sociale. Infine, i dati OCSE confermano che la probabilità di laurearsi per una persona il cui padre non abbia completato gli studi superiori è tra le più basse d'Europa. E il mercato dei neolaureati risente della crisi, lo conferma l'agenzia di selezione Bachelor, che registra un calo del 40% nel numero di annunci per neodottori nel terzo trimestre 2012 rispetto a quello precedente. Economia e ingegneria coprono oltre il 70% delle richieste, il 75% degli annunci per neolaureati offre uno stage mentre non decolla l'apprendistato. Dato positivo, un'azienda su due prevede l'inserimento di giovani laureati. E soffrono, secondo dati Assintel, persino i giovani laureati in materie tecnologiche che entrano nel mondo del lavoro con retribuzioni penalizzanti meno 5,2% rispetto alla media. Successivamente il gap viene solo parzialmente colmato. Per Giorgio Rapari, presidente di Assintel, la maggiore preoccupazione è il progressivo depauperamento di ciò che è più prezioso per le aziende ICT, i talenti e la capacità innovativa. Denuncia Data Giovani: l'incidenza del precariato tra gli under 35 è raddoppiato in 8 anni, passando al 39% nel 2011, prima di sfondare quota 40% quest'anno. Un under 25 su 2 è precario, nelle fasce più adulte queste percentuali invece si dimezzano. La laurea non garantisce più una difesa contro la precarietà, un diplomato tecnico ha le stesse probabilità di un contratto a tempo di un ingegnere. Infine i salari, quelli dei precari, sono inferiori almeno del 20%. E solo uno stagista su 10 riesce nell'impresa di conquistare un'assunzione. Nel 2011, su oltre 307.000 tra tirocini e stage attivati, la quota di quelli trasformatisi in posti di lavoro si è fermata al 10%, è quanto emerge dal sistema informativo Excelsior. Esiste una correlazione tra le competenze con cui i giovani entrano nel mondo del lavoro e la competitività di un paese. Lo rileva lo studio della Economist Intelligence Unit. Secondo questo studio, Finlandia, Corea del Sud e Hong Kong sono i paesi con il migliore sistema di istruzione grazie ai forti investimenti in educazione. Italia solo 24esimo. Mobilitare il capitale umano fatto di conoscenze e creatività. Questo, secondo l'OCSE, è l'ingrediente principale per una crescita forte e sostenibile. Ora un focus sulle province italiane più giovani. Secondo l'ultima classifica del Sole 24 Ore, Piacenza si rivela quella con il maggior numero di giovani, mentre Isernia, Campobasso e Trieste registrano il maggior tasso di giovani laureati. Il tasso più elevato di imprenditori under 30 è a Prato, seguito da Savona e Cuneo. Taranto appare la città più ostile per giovani e imprenditoria giovanile. Cartoline da un paese vecchio, i presidi under 40 nelle scuole italiane sono appena lo 0,5%, gli over 50 sono l'85%, resta elevata l'età media, 58 anni. E il Censis certifica la startup in Italia è giovane, nelle circa 800 startup nate nel 2011 l'età media degli imprenditori era di 32 anni. MRS, Captix, Liquid Web e Vivoccia sono i nomi delle startup italiane vincitrici dello UK Italy Springboard, tra i premi un periodo di incubazione nella Tech City di Londra. Scade il 31 dicembre la colla di Changemakers for Expo Milano 2015, il programma di accelerazione di imprese legato alle sfide di Expo rivolto agli under 30. Info a changemakers.makeacube.com. La storia di questa settimana di giovani talenti ci porta a svernare ai tropici. Lontani dal freddo di dicembre, puntiamo dritti verso l'arcipelago di Capo Verde. Nome: Tommaso. Cognome: Persello. Età: 35. Città di origine: Venezia. Studi: giurisprudenza. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2003. Per andare dove? Kuwait City. Perché? Una buona opportunità. Quale lavoro svolgi attualmente? Sono amministratore unico di una società di diritto capoverdiano. Tornerai? Al momento non ho progetti per tornare in Italia. Il timbro caldo, struggente e suadente della cantante capoverdiana per eccellenza Cesaria Evoria Sodad per introdurre la storia di Tommaso Persello. Qui si sente il vento della crescita e dell'entusiasmo soffiare. Le vele si gonfiano, noi scommettiamo sullo sviluppo dell'Africa. Scrivi a giovanitalenti@radio24.it. Tommaso, una bella iniezione di ottimismo per iniziare e una domanda secca per te. I paesi cosiddetti emergenti sono paesi per giovani e come concretamente? Io credo proprio di sì, credo che l'insieme di opportunità che si vengono a creare in un paese emergente siano le più adatte ad essere catturate da un giovane con voglia di fare, un giovane entusiasta, ottimista e con un pizzico di audacia sicuramente. Io intanto saluto Vivek Jacob, venture capitalist, il nostro ospite, tra poco saremo con te Vivek, buon pomeriggio. Grazie, buon pomeriggio. E prima di arrivare fino a Capo Verde, Tommaso, dobbiamo però partire dai tuoi primi passi in Ateneo. Sei originario del Veneto, ti trasferisci a Bologna per studiare giurisprudenza, perché? Subito dopo il liceo sono andato 6 mesi a lavorare a Londra e una volta rientrato ho voluto continuare a vivere fuori casa, quindi Padova come Ateneo era troppo vicino per giustificare una vita fuori casa e ho scelto Bologna. Ti laurei nel 2003, se dovessi dare tu un giudizio all'università italiana? Io reputo l'università italiana, quantomeno negli anni in cui io l'ho fatta, un'università molto buona che prepara molto una persona e la arricchisce. Il problema è che forse non la prepara bene al mondo del lavoro, ma questo è una cosa che i datori di lavoro devono capire. Come molti protagonisti delle nostre puntate, ti guardi intorno dopo la laurea cercando per qualche mese impiego in Italia. E i risultati quali sono stati? Io ho avuto fortuna. Dopo 2 mesi dalla laurea mi è arrivata una buona offerta. In questi 2 mesi ho cercato lavoro e il feedback mi è sembrato comunque positivo. E infatti la prima importante occasione arriva con il gruppo Veneto Safilo, che ti assume come country manager per il Kuwait. È stato difficile per te accettare la proposta di trasferirti in Medio Oriente? O hai colto al volo l'opportunità? Decisamente ho colto al volo l'opportunità. Ecco, con 25 anni mi propongono di andare a Kuwait City, un incarico di responsabilità, realmente non ci ho pensato 2 volte. Raccontiamole queste responsabilità a soli 25 anni, perché a volte, soprattutto adesso, sembrano lunari, quasi extraterrestri certe opportunità per i giovani. Fin da subito mi è stata data in mano la gestione di tutte le brand Safilo vendute all'interno dei 20 negozi di ottica di proprietà di questa famiglia araba e in più mi occupavo anche della distribuzione degli stessi presso altri retailer. Ho avuto carta bianca fin dall'inizio. E poi all'inizio del 2005 cambi azienda, Villa Moda, società della famiglia reale kuwaitiana, leader nel settore retail del lusso, ti fa una proposta. Quale? In Medio Oriente le job description non sono ben definite, quindi diciamo sono piaciuto al CEO della società e ho cominciato con la distribuzione di orologi Gucci e Fendi e poi piano piano mi sono ritagliato il mio spazio all'interno dell'azienda finendo per essere considerato un operatore operation manager, ossia mi occupavo di aperture di punti vendita in altre zone, in altri paesi del Medio Oriente. Neppure trentenne, insomma, ti ritrovi a girare per la penisola arabica aprendo punti vendita in qualità di operation manager. Toglici una curiosità: com'è la meritocrazia in questi paesi? È più sviluppata rispetto all'Italia? Nella mia esperienza sicuramente sì, nel senso che si guarda più al valore della persona. Con gli arabi è un problema di fiducia, una volta che si conquista la loro fiducia non c'è più nessun'altra barriera. All'inizio del 2007 l'ennesimo cambio nella tua vita, la tua è dopo tutta una storia che per certi versi cancella parecchi luoghi comuni. Il primo è che tu, quando decidi di rientrare in Italia, non trovi lavoro nel ricco nord-est di cui sei originario, ma è Napoli a darti un'occasione preziosa. Come ci arrivi? È stata in fin dei conti una casualità. Io ho risposto a un annuncio su un quotidiano e dopo una settimana sono stato richiamato. Penso sia stato uno dei pochi casi in cui la domanda di lavoro e l'offerta di lavoro si sono incontrati perfettamente. Ecco. In Italia, intendi. A Napoli ho trascorso un'esperienza professionalmente e umanamente indimenticabile. Con l'azienda Piazza Italia tu sviluppi il franchising, curi l'apertura di una ventina di punti vendita, molti dei quali tra Medio Oriente ed Est Europa. Anche qui carta bianca. Allora, ci possiamo consolare tutto sommato, Tommaso? C'è spazio per giovani e merito anche in Italia? Sì, la mia esperienza a Piazza Italia, a Napoli, sono stati 3 anni meravigliosi in cui ho avuto la possibilità di imparare un'infinità di cose, ho lavorato a stretto contatto con la proprietà. La tua sete di crescita professionale e la tua curiosità poi ti portano a licenziarti, andare in Marocco, a Marrakesh, per diventare libero professionista e consulente, e poi però ancora allo scoppio della primavera araba, con le inquietudini geopolitiche ad essa collegate, ti fanno tornare sui tuoi passi. Dopo un anno torni, lo dicevi prima, in Italia. Forse per un eccesso di presunzione o d'ottimismo credevo che non sarebbe stato particolarmente difficile stabilirmi qui. Credevo che le esperienze maturate all'estero mi avrebbero aiutato, che ci potessero essere aziende interessate a valorizzare e utilizzare la mia professionalità. I fatti mi hanno dato torto, a noti a giovanitalenti@radio24.it. Allora, quale Italia hai trovato ad aspettarti al rientro? A grandi linee io posso esprimere le sensazioni che ho riscontrato durante i vari colloqui di lavoro che ho fatto, e ho trovato un clima di sospetto, di diffidenza, di sfiducia, poca voglia di rischiare, di scommettere anche in una persona, ecco. E questo è il dato negativo. Per i colloqui di lavoro ti focalizzi sul tuo nord-est, area ricca, lo dicevamo prima, eppure quando si tratta di valorizzare le risorse umane qualificate qualche problema c'è. Ci racconti i colloqui che tu definisci frustranti, insomma colloqui che hai dovuto sopportare. Colloqui molto spesso rapidi, in 10 minuti penso sia praticamente impossibile arrivare a conoscere una persona. Delle feedbacks? Feedback sempre pochi, quando ci sono stati, e con dei tempi lunghissimi di attesa. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi ma da qua se ne vanno. Proprio in questo periodo ho maturato l'ipotesi di trasferirmi a Capo Verde, un paese in forte espansione economica, scrivi. A facilitare e spianare la strada anche il fatto che tua moglie è capoverdiana. Qual è l'idea imprenditoriale che nasce in questi mesi e che poi realizzerai? Quale attività apri ai tropici? Nasce un po' per caso. Io sono 10 anni che bazzico per Capo Verde, ma vengo sempre in vacanze a incontrare la famiglia di mia moglie. Dopo l'ultimo viaggio un gruppo di imprenditori mi ha chiesto com'è Capo Verde e quali sono le possibilità di investimento. Non ho perso tempo, sono immediatamente tornato a Capo Verde a fare un'indagine con questi obiettivi e i risultati sono stati sorprendenti. In seguito poi all'incertezza dei colloqui di lavoro, la difficoltà di trovare un lavoro vicino a casa nel Triveneto mi ha fatto decidere di trasferirmi a Capo Verde. Hai aperto una tua agenzia che aiuta ad attrarre investimenti esteri. Esatto. Ci dai qualche esempio concreto in brevissimo del clima di crescita che si respira lì? È un paese per giovani ambiziosi? Sì, Capo Verde, diciamo, posso dire che il PIL cresce una media del 6% all'anno e le importazioni sono in continua crescita e ci sono fortissime agevolazioni fiscali e doganali per gli investitori esteri. E poi Capo Verde in sé è un paese strategico per entrare nei mercati africani. Qualità della vita? Io mi trovo molto bene qui, vivo estremamente bene con i miei 2 figli. E ora facciamo per chiudere qualcosa che non abbiamo mai fatto, ma è Natale, vogliamo dare il nostro piccolo aiuto a chi come te è stato respinto da un'Italia forse un po' troppo schizzinosa verso i propri giovani talenti. Allora Tommaso, tu ci scrivi che hai bisogno di collaboratori. Chi volesse avere un'opportunità a Capo Verde, come può contattarti? Ci può scrivere a questa email info@cageinvest.com, Cage con la K. Domanda di rito: come vedi l'Italia dall'estero, cosa c'è che non va e una proposta concreta da cui ripartire? Io sono un ottimista di natura e un po' anche di professione, quindi credo che l'Italia sicuramente nei prossimi anni uscirà da questa situazione di stallo, e lo credo perché sono fiducioso nelle capacità della mia generazione. Giovani talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Tommaso Persello, 35 anni imprenditore, titolare di una società di intermediazione commerciale nata per attrarre investimenti esteri a Capoverde. Tommaso arriva ai tropici dopo aver lavorato 3 anni in Kuwait, prima per un'azienda italiana, poi per una società della famiglia reale, esperienza a cui fa seguito un rientro nella penisola con 3 anni di lavoro a Napoli, nei quali Tommaso amplia un network di franchising nel mondo arabo e nell'est Europa, poi un altro anno in Marocco come libero professionista. La primavera araba riporta Tommaso in Italia, con sua sorpresa scopre però un paese, in particolare il nord-est, addormentato, incapace di valorizzare il suo curriculum internazionale. Da lì la decisione di tentare l'avventura a Capoverde, arcipelago dove, parole sue, la qualità della vita e le opportunità di business si rivelano ben oltre le aspettative. Ed è qui con noi, lo abbiamo introdotto poco fa, Vivek Jacob, venture capitalist AD della Holding ICC. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. E Vivek, un anno fa, noi ci siamo conosciuti un anno fa, Little Italy Big Italians di Pesaro, convegno al quale era presente anche Giovani Talenti, e tu spronasti i giovani imprenditori a non porsi confini mentali, a giocare da veri global players. Come commenti allora la storia così internazionale, in grado di spaziare dall'Oceano Atlantico fino al Medio Oriente, di Tommaso? Quanto è importante avere oggi una mentalità protesa verso il rischio, mettendosi in gioco? La prima parte della domanda, cosa penso di Tommaso? Io penso che questo è un esempio per tutti i giovani. Davanti a un destino che non è a tuo favore, tu vai fuori e te lo crei, anche passando per le pene dell'inferno, no? Perché Capoverde, molte persone non sanno manco dov'è sulla mappa, chissà quanti dubbi ha dovuto affrontare, rischiava anche essere travolto dai dubbi degli altri. Ma questo sarà nel breve, nel lungo io penso che lui ce la farà, perché la mentalità, che non sta improvvisando niente, lui ha fatto delle esperienze specifiche di globalizzazione, adesso lo sta implementando per conto suo. Vive che il tuo curriculum è così lungo che è difficile riassumerlo in poche parole, anche se ha un filo rosso comune, quello dell'investire e del seminare a qualsiasi latitudine o longitudine, capitalismo puro, insomma. Se in un minuto tu stesso ti dovessi raccontare? Sono un venture capitalist, perciò siamo molto orientati all'allocazione dei capitali. I nostri investimenti sono targettati su operazioni di transnazionale, perciò globalizzazione, su un asse che fa America-Asia. Perciò noi su quell'asse investiamo cercando di trovare aziende di medie e piccole dimensioni che hanno alte potenzialità di crescita. Questo anche per presentarti meglio ai nostri ascoltatori. Quali sono i paesi o le aree del mondo che a tuo parere possono oggi garantire le maggiori opportunità a un giovane italiano che si affaccia al mondo del lavoro? Ma sicuramente dove nasceranno i futuri megatrend economici. Ricordiamoci che questo, stiamo ritornando al passato. Nell'inizio del secolo 50% del PIL del mondo era l'Asia. E questo inevitabilmente ritorniamo a questo. Ricordiamoci che 2012 è un anno spettacolare, importantissimo, perché gli obiettivi millennali delle Nazioni Unite 1990 di dimezzare la povertà entro il 2015, siamo già riusciti a farlo nel 2008. Perciò credo che questo è dovuto al dividendo demografico di quei paesi lì, alti consumi, ragazzi che non vogliono più vestirsi tradizionalmente. Vedo aziende dove abbiamo importanti investimenti come il gruppo Carrera, che sta veramente capendo che bisogna avere una visione cosmopolita, globale. E l'Italia come la giudichi? Stupisce sentire ogni settimana qui su queste frequenze storie di giovani qualificati con esperienze internazionali come Tommaso respinti da questo paese. Siamo condannati secondo te a un provincialismo declinante, privi dei nostri migliori talenti, ma soprattutto perché questa difficoltà nel valorizzare il merito? Ci sono due fattori. Uno è la bassa scolarizzazione della prima generazione di imprenditori, che adesso, questo non è una crisi, questa è una metamorfosi, ed è una metamorfosi molto necessaria. L'Italia esprimerà tanto in questo momento e si trova a dover risolvere dei problemi strutturali, e al contempo ha dei giovani, come diceva Tommaso, che hanno dei talenti ma non hanno ancora alte tolleranze al dolore, a fare importanti sacrifici. Cioè, a me, viviamo da un mondo dove... Transizione. Prendi un ragazzo, lo porti, non lo so, in Cina, la prima cosa è però come far cucinare mia mamma è meglio. Dobbiamo adattarci, assolutamente. Però l'Italia in questa transizione si gioca il futuro. Assolutamente. Se non interpreta bene questa fase, aprendosi e globalizzandosi. Assolutamente, cioè io vado lì, vai in un paese che comunque è povero, che è l'India, e vedi le macchine, il parco macchine che gira, non è che ci vuole un economista della MIT a capire che dove sta generandosi la ricchezza. Perciò l'Italia deve integrarsi, stiamo diventando un mondo. Tommaso, hai una domanda per Vivek e Jacob? Quale paese sceglierebbe per vivere? Quale paese sceglierebbe per lavorare? E quale paese sceglierebbe per vivere e lavorare allo stesso tempo? Senza ombra di dubbio, il paese dove sceglierei per vivere è l'Italia, anche questo perché è positivo. Questo assolutamente, perché qui ci piangiamo un po' troppo addosso, francamente. Dovremmo fare un esercizio non tanto di puntare le dita di dove le colpe per la situazione attuale, ma di darci da fare. Perciò l'Italia ha una grande prospettiva, soprattutto come capitale intellettuale. Tutti gli uomini più importanti per me sono italiani. Li dobbiamo usare. Questo capitale lo dobbiamo usare. Questo ancora non lo facciamo abbastanza. Per lavorare quale paese? Ah, caspita, questo è difficilissimo, perché tutti dobbiamo abituarci ad essere multinazionali umane. In breve, la tua personale ricetta per l'Italia affinché possa rilanciarsi, guardiamo già al 2013, anche attraverso il contributo dei suoi migliori talenti e quindi capitale umano. C'è una domanda di riserva, perché questo... non ce l'abbiamo. Allora, prima di tutto, viviamo in un paese dove non sappiamo nemmeno quante leggi abbiamo esattamente, che è una roba allucinante. E questo bisogna venire giù con un motosega e ridurli al massimo. Non è possibile che viviamo in un paese dove sono 17.000 le leggi con implicazioni penali per un imprenditore. Dobbiamo liberare la risorsa più importante che abbiamo, che sono le imprese. Perciò velocizzare i tempi per aiutare qualcuno a rischiare i capitali, perché se non c'è qualcuno che rischia i capitali, signore, è inutile pensare di proteggere posti di lavoro. Io non posso pensare di venire in Italia con un mio fondo e la prima cosa che devo fare è andarmi a sedere davanti a un notaio. Con tutto il rispetto che ho per quella stirpe, io non posso perdere due ore meno a sentire qualcuno che mi recita lo statuto. Qualche corporazione in meno ci vorrebbe. Io intanto ringrazio Vivek Jacob, grazie e tanti auguri. E domanda di rito per Tommaso Persello: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando tra le varie vie di uscita a un espatrio? Il mio motto è che la sorte premia gli audaci, quindi io esorto i giovani a gettare il cuore oltre l'ostacolo. Se io avessi saputo cosa mi aspettava in molte delle mie avventure, sicuramente non avrei accettato. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi vi segnaliamo: un economista alla Deutsche Bundesbank, sede di Francoforte, con buona conoscenza di inglese e tedesco. Scadenza per i CV 14 gennaio, info a bundesbank.de. Un ingegnere capo progetto per la Maersk a Copenaghen, con esperienza nel settore gas e petrolio. Scadenza per i CV 31 dicembre, info su jobsearch.maersk.com. E infine uno scienziato del suolo alla Wageningen University in Olanda. Scadenza per i CV 12 gennaio, info su wageningenuer.nl. E siamo giunti ad Expats, lo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova emigrazione professionale. Oggi torniamo a parlare di libri che raccontano la recente ondata migratoria di giovani in fuga dall'Italia. È uscito alcuni mesi fa Come lasciare tutto e cambiare vita. L'autore è Alessandro Castagna, ideatore anche del sito Voglio vivere così. Il libro nasce come manuale, dopo anni di sito dove abbiamo raccontato le storie di tantissimi italiani che si sono trasferiti all'estero. Ci hanno proposto di fare questo libro e allora abbiamo accettato ben volentieri. Il libro è una sorta di manuale, è diviso in tre parti. Una parte è psicologia del cambiamento, dove spieghiamo quali sono gli ostacoli che possono ostacolare il cambiamento e analizziamo come superarli. La seconda parte invece è più legata agli aspetti pratici del cambiamento, quindi fate attenzione, dovete imparare bene la lingua, non è sufficiente l'inglese scolastico. Mentre nella terza parte analizziamo 10 schede paese, cercando di dare delle informazioni utili e pratiche per chi magari vuole orientarsi ad un paese piuttosto che un altro. Il libro nasce anche un po' dal sito Voglio vivere così, che hai portato avanti per diversi anni. Quale Italia hai scoperto attraverso il sito Voglio vivere così? C'è un'Italia, a mio avviso, divisa in due. C'è l'Italia del Sud, che fa fatica a trovare lavoro e che quindi vede nell'estero delle possibilità di mettersi in gioco dal punto di vista lavorativo e di trovare delle opportunità di lavoro. C'è invece un'Italia dell'Italia del Nord che è più intraprendente e che magari vede l'estero come possibilità di intrapresa, come voglia di iniziare nuove attività imprenditoriali, magari in nazioni che offrono più opportunità. Possiamo dire che la differenza fondamentale tra il nostro paese e altri industrializzati sta proprio qui, cioè nella necessità di dover mollare tutto, più che in una scelta vera e propria? Sì, io direi assolutamente di sì. Una grossa differenza che sottolineano tutte le persone che abbiamo intervistato, quasi tutte, è che all'estero vige la meritocrazia. Anche in tempi di crisi? Anche in tempi di crisi, perché sono molte ma molte le aziende, soprattutto anglosassoni, che assumono per esempio nell'information technology, assumono molto per esempio a Berlino, ci sono tantissime start-up che, adesso mi viene in mente per esempio un biologo che è stato assunto in una start-up di e-commerce, di abbigliamento, quindi non aveva niente a che vedere. Provvidentemente avevano visto in lui delle capacità, delle potenzialità che avrebbero fatto bene all'azienda e quindi hanno deciso di assumerlo e lui è contentissimo, ci ha raccontato una storia molto, molto avvincente e bella. L'identikit medio di questi espatriandi sono giovani, laureati? È molto trasversale, ci sono anche molte famiglie che decidono di cambiare vita per dare un futuro migliore ai loro figli. Per maggiori informazioni, come lasciare tutto e cambiare vita, di Alessandro Castagna, Newton Compton, editore. Un motivo per restare. O tornare. Il Senato Accademico della Sapienza ha dato il via libera alla chiamata diretta nel ruolo di professori associati di 6 vincitori di programmi di ricerca dell'Unione Europea. I ricercatori, 3 uomini e 3 donne, entreranno a far parte del corpo accademico dopo la valutazione del Consiglio Universitario Nazionale. Di fronte alla fuga dei cervelli, questa scelta è la dimostrazione, spiega il rettore Luigi Frati, che esistono strumenti per valorizzare i talenti scientifici migliori capaci di attrarre risorse competitive per la ricerca. E per interagire con noi potete collegarvi online su Facebook nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina Fuga dei Talenti potrete rispondere alle discussioni del mese che rilanciamo anche sul gruppo La Fuga dei Talenti all'interno del portale professionale LinkedIn. Potete pure contribuire al blog aperto all'indirizzo radio24.sole24ore.com/blog/nava. Siamo allo spazio Interactive. Ogni ultimo sabato del mese leggiamo le vostre lettere in onda. La discussione di dicembre è: una maggiore e più concreta integrazione università-mondo del lavoro può evitare la fuga dei talenti dall'Italia, favorendo canali sani e meritocratici d'ingresso con esperienze reali fin da studenti, o serve anche altro? Per condividere idee, proposte e denunce nel nostro forum scriveteci a giovanitalenti@radio24.it. Vi ricordiamo infine che siamo sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare. Se siete under 40 ed espatriati, potete candidarvi a giovanitalenti@radio24.it. E finisce qui questa puntata di Giovani Talenti. Aspetto dunque i vostri contributi via email. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30 sempre su Radio 24 per la prima di 2 puntate speciali per le feste. Un saluto e un grandissimo augurio di Buon Natale da Sergio Nava.